Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Il caffè della domenica di Maria Latella. Buona domenica a tutti. Prendiamo insieme il caffè questa mattina con un uomo che è un simbolo, uno dei simboli del Made in Italy, un italiano del centro Italia che è conosciuto in tutto il mondo. Buona domenica, buon caffè a Brunello Cucinelli. Grazie, grazie, buona domenica anche a voi. Brunello Cucinelli, la settimana della moda a Milano è stata una settimana speciale. Ci sono state 23 sfilate dal vivo e soprattutto più di 40 show online, col desiderio, no, di uscire da un lockdown che per la città è stato ed è ancora molto difficile. Lei che ha passato appunto i giorni della settimana della moda a Milano e che li passa da sempre, come ha trovato la città e che esperienza ha ricavato dai contatti con i compratori, con quei pochi che sono arrivati in città? Allora, intanto dico che, bellissima la domanda, intanto dico che questa pandemia è una sorta di disputa fra il creato e la terra, no? Però io credo che ogni giorno noi abbiamo leggermente meno timore, ma molta molta attenzione, questo facciamo, e così è avvenuto a Milano, no? Del resto Tommaso Moro ci dice: oh mio Dio, aiutami ad accettare ciò che non posso cambiare, aiutami a cambiare ciò che posso cambiare. Allora ci siamo detti a Milano tante cose, avevamo voglia di rivederci, è stata molto interessante, mascherine per protezioni tutto, ma la cosa che abbiamo portato a casa è sicuramente che è una congiuntura e non è un problema strutturale come il 2008, quando non sapevamo onestamente che cosa fare. Oggi le banche, i governi hanno messo a disposizione tanti denari e quindi sappiamo che è molto congiunturale. Quindi se noi dedichiamo il 60% del tempo agli anni a venire e il 40% a questo, e ho trovato un forte desiderio di riprogettazione da parte di ognuno, dalla stampa ai clienti a ognuno di noi, il grande, se volete, desiderio di rincontrarci, di ritrovarci, di rivederci, di frequentarci, e consentitemi anche un grande desiderio di fisicità, no? Che viene magari dallo sport, dal ballo, da abbracciarci, quindi una settimana questo è vero. Positiva. Questo è vero, forte, il desiderio di ritrovarci. È anche vero che di fronte alla crescita di nuovo, no, del contagio, si va incontro a forse dei lockdown centralizzati. Ma io volevo chiederle che cosa sta succedendo dal punto di vista di un protagonista del Made in Italy, che lo ricordiamo è importantissimo per il prodotto interno lordo italiano. La moda rappresenta l'1,3% del prodotto lordo, sono 22 miliardi. Ecco, con quello che è successo e con quello che sta succedendo, per esempio, negli Stati Uniti, lei con quale spirito affronta i mesi a venire? Per capirci, come vanno, per esempio, per il mondo della moda e per lei, gli affari negli Stati Uniti, dove c'è una situazione piuttosto compromessa, piuttosto preoccupante, a cominciare dal fatto che il presidente degli Stati Uniti è stato contagiato dal Covid, e poi invece dall'altra parte del mondo, dove tutto è cominciato in Cina e dove pare che l'economia sia tornata, se non ai livelli di prima, comunque tornata a galoppare. Qual è la fotografia che lei dà di questi due paesi in relazione al prodotto di cui lei si occupa, cioè la moda? Molto interessante questo, perché la scorsa settimana abbiamo avuto una call con tutti i nostri 200 dipendenti in Cina, e pensate, erano tutti senza mascherina e vicini a loro come in condizioni normali. È vero, hanno iniziato in gennaio, quindi questo come prima ci hanno trasmesso un po' di paura, adesso ci hanno trasmesso speranza. Ma vi devo dire la verità, in tutti i paesi, in tutto il mondo si sta tornando a riprogettare. Chiaro, con diversa intensità, no? In Cina sono leggermente più avanti, in Russia, Europa del Nord ancora leggermente più avanti dell'Europa del Sud, in America ci sono i primi segnali di ritorno alla progettazione. Questa è una cosa molto positiva, credo che ormai tutti sanno che è una cosa che passerà forse fra 6 mesi, 3, 5, ma andiamo verso qualcosa che passerà, quindi questa idea di riprogettare insieme. Noi in azienda, come vi dicevo prima, dedichiamo il 60% del tempo a riprogettare, capito? Tutto sommato sono in che solo... direzione, Cucinelli? Riprogettare che significa adesso? Beh, intanto io credo che ci siano due grandi temi che questa pandemia ci lascerà, no? La prima, a corto, siamo impauriti, addolorati, siamo aperti a persone amabili, gentili, educati, perché quando l'animo umano è addolorato, questo è, siamo un po' meno aperti, se volete, all'arroganza, e questo si vede anche nel grande riprogettare di ognuno. E poi credo che ci sarà un altro grande tema di fondo. Uno, non volgeremo probabilmente più le spalle alla povertà, no? Ma tutti i prodotti, chiunque, in qualsiasi parte del mondo, saremo più attenti dove sono prodotti, abbiamo recato danni al creato, alla terra, agli uomini, agli animali. C'è una grande presa di coscienza totalmente diversa. Probabilmente. Cucinelli, senta, un grande, diciamo, nome, uno dei più grandi del lusso nel mondo, il francese Arnault, ha cancellato un'acquisizione che era prevista, quella del brand Tiffany, e nel mondo della moda molto è stato, come dire, ridimensionato. Lei, per la sua esperienza, è stato costretto a ridimensionare, per esempio, il numero dei dipendenti, oppure per quanto riguarda le collezioni che per 3 mesi non sono state vendute, perché sì, si vendeva online, ma è diverso, che fine hanno fatto? Allora, guardi, noi in questi momenti a volte anche sufficientemente dolorosi abbiamo preso, io credo che innanzitutto ci voglia grande umiltà, grande coraggio e idee, no? E noi a marzo abbiamo deciso di chiudere una settimana prima perché ci eravamo spaventati, grazie ai nostri amici cinesi. Poi abbiamo preso una grande decisione di non licenziare nessuno in nessuna parte del mondo, e tutti avranno lo stesso compenso che l'anno prima, di non chiedere sconti a nessuno, perché quando è una cosa così mondiale, come diceva Cotrui nel 1453 sul mercante onorevole, se si compra e si vende al giusto prezzo ne va della crescita dell'umanità. E poi avevamo merce in sovrappiù derivante chiaramente dalla chiusura dei negozi, è stata una scelta forte di donarli all'umanità sotto forma appunto di dono. Perché? Perché così è. Ecco da dove secondo me siamo ripartiti noi, ma in generale stiamo riequilibrando le nostre imprese. Sappiamo che non è facile, comunque congiunturale, questo sì. Ripeto, nel 2008 onestamente non sapevamo che strada prendere. Adesso sì, consideri una cosa. Se è vero che l'anno prossimo ci saranno nazioni con un PIL importantissimo, l'8%, il 10%, pensi lei lavorare in queste nazioni come sarà un po' più positivo e un po' più affascinante? È chiaro? Quindi, dovremmo avere un diverso equilibrio tra esseri umani, questo sicuro. Quindi bisogna guardare in una dimensione globale a quei paesi che andranno bene. Nel frattempo, qui in Italia, Cucinelli, ed è l'ultima cosa che le chiedo, siamo in chiusura, c'è la possibilità appunto che ci sia una proroga, anzi prevista una proroga dello stato d'emergenza fino a gennaio, la considera necessaria? Ma guardi, non sta a me decidere, ma io penso di sì. Cioè noi ci siamo comportati, secondo me, a livello mondiale molto bene. La nostra struttura sociale, il nostro stato sociale, non vi è dubbio che io penso che sia il migliore al mondo, ha retto bene. Adesso, se piano piano torniamo in qualche maniera alla normalità, con le attenzioni di sempre, con la progettazione di sempre, sotto il profilo economico io dico gli stati, le banche hanno messo a disposizione tanti soldi. Ripeto, non voglio dire che sia facile, ma guardi, questa non è una cosa che durerà 3 o 4 anni, quindi sono molto molto fiducioso anche a corto, con un solo, diciamo, dobbiamo fare solo un grande cambio: sostituire la paura con la speranza, perché questo è un progetto abbastanza importante, specialmente tutto ciò che abbiamo fatto con i nostri figli, no? Quello di trasferire loro ogni giorno il dovere di aver paura, se volete, no? Quindi sì, dopo la paura negativo. Lei dice la speranza. Dopo la paura la speranza. La speranza concreta, signora Maria, la speranza concreta, guardi. Perché anche la tecnologia ha bisogno di ritrovare un equilibrio. Abbiamo bisogno di tornare a vivere nelle belle periferie, abbiamo bisogno di tornare a vivere forse nei borghi, nelle cittadelle, a una condizione che la vita in queste cittadelle e borghi soddisfi pienamente i nostri giovani, come ci insegna Rousseau nel 1765. Quindi lei mi trova sufficientemente positivo. Beh, è bello cominciare con un caffè ottimista questa domenica. Grazie a Brunello Cucinelli per essere stato con noi. Noi ci fermiamo e poi torniamo con Nessuna è perfetta come ogni domenica. Grazie Cucinelli, buona domenica a lei e buon caffè. Grazie.